and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi è giovedì, quindi parliamo di talk show. Sì, anche, però anche. Prima vorrei parlare di qualcos'altro. Talk show ci sono, verso la fine. Parliamo di un'iniziativa editoriale che viene un po' incontro appunto all'infantilismo tipico degli italiani. L'ignoranza anche. L'ignoranza, forse. Sì, perché gli adulti si sentono bambini e quindi sono anche un po' ignoranti. Sì. Pochi adulti oggi leggono più di un libro all'anno, questo lo io sai. Io metto tra quelli. Ecco, tu ne leggi sempre 10 pagine, poi ti stufi e sì, metti via. Se li metto tutti insieme, forse un libro lo fanno. Va però... bene, però come fai ad andare in società quando, non so, vai alle feste o vai a qualche cena e a non saper citare nemmeno il libro del momento? Dai. Non lo so, l'altra sera sono andato a X Factor, non è che a X Factor proprio si parli di letteratura, quindi voglio dire, posso farne anche volentieri a meno. Se ti trovassi in difficoltà qualche volta invece e si parla di libri classici o di libri in cui bisogna aver letto ad ogni costo, fai finta di averli letti, no, come faceva Zelig. Vai a comprare in libreria questi nuovi riassunti d'autore con Umberto Eco che ti spiega, non so, i Promessi Sposi, oppure bello. Altri scrittori famosi che ti spiegano in maniera molto semplice Moby Dick, i vari classici del passato. Comodo. Facile, certo. Bello, ottima idea. Sì, però un po', come dire, anche un po' svilente, perché ci sono, voglio dire, sei l'Ulisse di Joyce, poi te lo spiegano in 30 pagine. Ma non hai detto che c'era Eco che spiegava i Promessi Sposi? Sì, ho capito, quindi Eco sicuramente bravo, siamo d'accordo, però i Promessi Sposi originale è meglio, ma no? Perché, quello che scusa? Voglio dire io, ma come? Ma, perché? Ma non è vero, invece quello che importa è il plot, no? E quindi tu c'hai Umberto Eco che sicuramente di storie se ne intende, che ti semplifica tutta la manfrina di Manzoni, che ormai poi la manfrina di Manzoni. Ma dai, è l'unico Ramo del Lago di Como. Primo romanzo in lingua italiana. In Italia non c'era mai stato uno che aveva scritto un romanzo. Ormai ce ne sono stati anche troppi. Quindi va bene che ci sia Umberto Eco che ti riassume. Il Ramo del Lago di Como è fondamentale. Ma non può arrivare vero. Umberto Eco e dire: vabbè, c'è Renzo, Lucia, erano due innamorati. Ti spiega la roba così. Così. Ma no, ma non è possibile. Io lo leggo molto volentieri. E certo, tu lo leggi volentieri perché va giusto bene per i bambini. Tu sei un bambino e quindi va bene per te. E tu invece cosa fai? Ti metti a leggere L'Ulisse di Joyce? In originale, mi è anche successo. Però tu immagina allora se dovessimo ridurre così per i bambini i grandi classici della letteratura, quella proibita, però non tipo? So. Non so, tipo Henry Miller o tipo Anthony Burgess, Arancia Meccanica, no? Beh, Arancia Meccanica per i bambini è bellissimo, scusa. Più o meno farebbe così. Cari bambini, oggi vi racconterò la storia di Arancia Meccanica, un romanzo di Anthony Burgess. Che bello, che bello! Arancia Meccanica è la storia del bambino cattivo Alexander Delarge. Ciao, sono io! Eccentrico, antisociale e intelligente capo della banda dei drughi. Sono il capo dei drughi! I drughi trascorrono il tempo dedicandosi al sesso. Oh, oh! Ai furti. Oh, oh! Ho detto ai furti. E vabbè, però non avevo finito. E alla violenza gratuita. Oh! L'occupazione preferita dei drughi sono le cosiddette visite a sorpresa. Sorpresa! Che consistono nel convincere gli abitanti delle villette di periferia ad aprire la porta con una scusa e quindi esercitare la suddetta violenza gratuita. La lettura di questo romanzo di Anthony Burgess è consigliata ai bambini che hanno istinti omicidi e di crudeltà fine a se stessa. Hai finito? Sì, caro bambino. Adesso ti incapretto, ti metto per terra sul pavimento e ti riempio di bastonate. Sei morto? Chiedo asilo! Ci sono tante fragoline, tutte rosse piccoline ci sono. Ci sono tante pecorelle, tutte bianche, tutte belle. Ci sono fiori nei giardini, ci sono tanti pesciolini. Tutto questo sai perché? Conta 1, 2, 3. Conta 10, conta 20, conta tutti quanti i denti. Conta, conta, tamburino, che il nemico è qui vicino. Poco male ci farà se nel cielo volerà, volerà, volerà. Se giochiamo in compagnia, il nemico scappa via. Vola, vola, canta, canta. Scrivi sulla carta bianca, io ti scrivo e ti rispondo. Ho girato tutto il mondo fino al giorno 23 a star sotto. Tocca proprio a te. cos'è sto casino? Come cos'è? Te l'ho detto, giovedì talk show, no? Sì. Lascia che parli. Giovedì Fight Club più che altro. Ma vabbè, ma questo è anni zero, è il talk show più rissoso della TV, più infantile, lo sai, te l'ho detto, lascia, ascolta che magari impari qualcosa. Ma cosa ascolto? Cosa imparo? Impari che vedi, senza la guida di un capoclasse va tutto a ramengo. Vabbè, ma lì c'è il capoclasse. Sì, bravo, il bambino, bambino Santoro. Bravo quello. Ma vaffa, un bicchiere. Anche il bambino Santoro ogni tanto perde le staffe, poi sai, è preoccupato, essendo di sinistra vede che a sinistra manca il capoclasse, manca uno che guidi. Ma ancora con questa logica del capoclasse, come quando ai mondiali l'Italia fa schifo, si spera che nell'ultimo minuto entri il fuoriclasse Totti che risolve il mondiale. Magari ma sì, è così. Ma basta pensarla così, non ci servono più i capoclasse, ma lo come capisci? No? Non servono più. Anche il bambino Fioroni a sinistra. Che lui si rifà all'amico aspirante capoclasse bambino Veltroni. Esatto. Ecco, anche lui ti spiega la situazione dicendo è la maggioranza che è rimasta ed è la minoranza che se n'è andata. Okay, anzi, cioè no, è la maggioranza che è andata via e la minoranza che è rimasta. Anzi, è la maggioranza che è la minoranza. Non si forse capisce niente, minoranza. Ma infatti non ci vanno i capoclasse. Sì, tutta anarchia. Ma certo, il bambino Grillo, per esempio, è proprio lui che fa il capoclasse, fa il leader, bravo. Ma dice che non bisogna votare lui come leader, anzi che non bisogna votare i leader, che se voti un leader sei un bambino. Perché se dai il voto a me sei un bambino, sei un bambino stupido, perché non ci sono più leader, sei tu leader di te stesso, cresci. Cresci? Cresci. Cresci. Me lo devo sentir dire dal bambino Grillo. Beh, lui insomma. Proprio lui che dopo aver detto questa cosa si mette a fare l'imitazione di Bossi. Padre, mio nonno paralizzato sulla seggiolina che scorreggia e fanno i titoli sui giornali. Dai, ma ti sembra il comportamento di una persona adulta, dai. Cosa? Mio nonno che scorreggia, insomma, fa parte dell'immaginario. Il nonno di Grillo. Grillo. Vogliamo fare due calcoli. Cioè, Grillo ha 62 anni, metti che suo padre sia ancora vivo, ne abbia... che ne so, 82 solo. Vabbè, dai, ne ha avuto 20 anni. Allora metti che il nonno ne abbia 110, potremmo starci, però 110 non credo. A parte che tu di matematica proprio non so come fai ad alzare. A proposito di nonni, chi è che ti viene a prendere oggi? Perché mio nonno. Ma scusa, ma tuo nonno è morto nel 77. Vabbè, ma l'altro nonno, quello morto nell'88. È morto. Bambini, allegria! Perché adesso allegria, Drago, allegria! Ma mai buongiorno! Certo, dobbiamo fare il quiz. Il quiz, Drago, si inaugura il quiz di Chiedo Asilo, che mette in palio un premio fantastico, una merendina esclusiva, il Wunderwaffe! Wunderwaffe! Wunderwaffe! Wunderwaffe! Wunderwaffe! Wunderwaffe! Abbiamo anche lo sponsor Wunderwaffe, certo. E da quando? Da adesso. Crescono gli ascolti, crescono anche gli investitori. Gli stipendi invece mai, eh. Vabbè, dai, allora, su. Chi vuole vincere un Wunderwaffe, merendina ufficiale esclusiva di Chiedo Asilo, sa quello che deve fare, e cioè rispondere al quiz scrivendo a chiedoasilo@radio24.it. Ecco, ma che quiz è? Un quiz radiofonico. Naturalmente, e quindi bisogna aguzzare le orecchie e bisogna ascoltare con attenzione la frase che state per sentire. Dunque, il quiz di Chiedo Asilo non può che partire da un caso di palese infantilismo. Oggi vi proponiamo infatti l'ascolto di una vera e propria crisi isterica del solito bambino Sgarbi, ripresa nella solita diretta TV. Ascoltate con attenzione perché noi vogliamo sapere quante volte verrà pronunciata una determinata parola. Tu hai detto che ha scelto la porta! Detto, non lasciami ha scelto parlare! La... E taci! Hai detto che non ha scelto la porta! Taci! Il Presidente della Repubblica taci! Sta difendendo taci! La taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Taci! Torniamo! Taci! Oh, allora, avete ascoltato bene? Io ho perso un po' il conto, comunque. Di cosa? Le volte che ha detto taci. Non è quello che voglio sapere. Come io? No. Quello che vogliamo sapere noi è quante volte è stata pronunciata la parola Repubblica. Ma come Repubblica? Scrivete a chiedoasilo@radio24.it. In palio per voi c'è un Wunderwaffe. Wunderwaffe. Vabbè, ma scusa, capo, il quiz è troppo difficile, dai. Cosa? E come fai a sentire Repubblica se quello dice sempre taci? Basta che taci! Torniamo domani e mandateci i vostri taci a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.